processo storico di separazione del produttore da mezzi di produzione. Processo storico di separazione del produttore da mezzi di produzione. Dissolvi il feudalesimo e nasce il capitale. Dissolvi il feudalesimo e nasce il capitale. Punto di partenza è servitù del lavoratore. Punto di partenza è servitù del lavoratore. Tutto inizia con Enrico VIII. Tutto inizia con Enrico VIII. Da proprietà privata personale a proprietà privata capitalistica. Da proprietà privata personale a proprietà privata capitalistica.